Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il Commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Ellen Bober e Lewis Carp camminavano, senza tenersi per mano, sul lungomare a Coney Island, nella notte ventosa. Lewis, rincasando per la cena quella sera, l'aveva fermata mentre tornava dal lavoro, davanti al negozio di liquori. «Che ne diresti di un giro con la Mercury, Ellen? Ti vedo così di rado ormai. Era meglio ai tempi in cui si andava a scuola». Ellen sorrise. «A dire la verità, Lewis, sono lontani quei tempi». Un sentimento di tristezza, cui seppe reagire da vera esperta, la salì immediatamente. «Lontani o vicini, per me è sempre lo stesso. Aveva le spalle larghe e la testa piccina, passabile, nonostante gli occhi sporgenti. A scuola, prima di abbandonare gli studi, si pettinava i capelli lisci all'indietro. Un giorno, dopo aver studiato le foto di un attore del cinema sul Daily News, si era fatto la riga da un lato. Questo era l'unico mutamento che avesse notato in lui. Se Nat Pearl era ambizioso, Lewis faceva una vita comoda, godendosi i frutti del lavoro di suo padre. «Comunque sia», gli disse, «perché non ci facciamo una scorazzata in macchina in ricordo dei vecchi tempi?» Lei meditò un attimo, premendosi un dito guantato sulla guancia, ma era soltanto una posa, perché si sentiva sola. «Il ricordo dei vecchi tempi? Dove? Proponi tu lo scenario, spettacolo continuato. A Coney Island?» Lewis alzò il bavero del cappotto. «Brrr, è una sera fredda e c'è vento. Vuoi congelare?» Vedendo la sua esitazione, disse: «Ma starò al gioco. A che ora passo a prenderti?» «Vieni dopo le 8 e suona. Io scenderò». «D'accordo», disse Lewis. «Alle 8. Lungo tutto il percorso, Ellen aveva continuato a pensare alla propria vita, alla differenza tra la solitudine di adesso e l'allegria di quando era giovane e trascorreva tutti i giorni d'estate sulla spiaggia con una vivace brigata di ragazze. Ma quando i suoi compagni di scuola si erano sposati, li aveva lasciati perdere ad uno, e via via che gli altri terminavano gli studi all'università, invidiandoli e vergognandosi del poco che le riusciva di fare, smise di vedere anche loro. Dapprima, lasciar perdere la gente le faceva male, ma dopo un po' divenne un'abitudine non troppo faticosa. Ora non vedeva quasi più nessuno, solo di tanto in tanto Betty Purr, che la capiva, ma non abbastanza perché la sua compagnia le premesse molto. Lewis, il viso arrossato dal vento, intuì il suo stato d'animo. «Che cosa ti succede, Ellen?» disse, cingendole la vita. «Non te lo so proprio spiegare. È tutta la sera che penso alle magnifiche giornate passate su questa spiaggia quando eravamo ragazzi. E ti ricordi che feste? Probabilmente sono triste perché non ho più 17 anni. Che male c'è ad averne 23? Si è vecchi, Lewis. Le nostre vite mutano così rapidamente. Sai che cosa significa la giovinezza? Certo che lo so. Non pretenderai che dia via qualcosa per nulla. Ce l'ho ancora io, la mia giovinezza». «Quando una persona è giovane è privilegiata», osservò Ellen, «è piena di possibilità. Cose meravigliose possono accaderti e quando ti alzi al mattino senti che accadranno. Questa è la giovinezza ed è ciò che ho perduto. Adesso sento che ogni giorno è uguale al precedente e quel che è peggio uguale al giorno dopo. Sicché adesso sei una nonna. Il mondo è diventato piccolo per me. Che cosa vorresti essere? Miss Oro del Reno? Voglio una vita più aperta, migliore. Voglio riavere le mie possibilità. Quali? Helen strinse l'inferriata che sentiva fredda attraverso i guanti. «Gli studi», disse, «le prospettive, cose che ho desiderato ma non ho mai avuto. Anche un uomo? Anche un uomo». Il braccio di lui la strinse alla vita. «Per parlare è troppo freddo, piccola. Che ne dici di un bacio?» Gli sfiorò le labbra fredde, poi distolse il capo. Lui non insistette. «Lewis», disse guardando una luce lontana sull'acqua, «cosa vuoi dalla vita?» Il suo braccio ancora la cingeva. «Quello che ho. E di più. Di più cosa? Più ancora. Perché mia moglie e la mia famiglia possono averlo anche loro. E se lei volesse qualcosa di diverso da quello che vuoi tu, qualunque cosa volesse, sarei lieto di dargliela. Ma se volesse migliorare se stessa, avere idee più grandi, vivere una vita più valida, moriamo così presto, così irrimediabilmente. La vita deve avere un significato. Di, piccola, piantiamola con questa profonda filosofia e andiamo a sbaffarci un hamburger. Il mio stomaco protesta. Un momento ancora. Sono secoli che non vengo qui in questa stagione». Egli mosse le braccia. «Gesù, quanto vento! Mi sale su per i pantaloni. Dammi almeno un altro bacio». Si sbottonò il soprabito. Lei si lasciò baciare. Le palpò il seno. Helen si sottrasse al suo abbraccio. «No, Lewis». «Perché no?» Rimase lì imbarazzato e seccato. «Non mi dà nessun piacere. Forse sono il primo che gli ha mai dato una strizzatina? Stai raccogliendo statistiche?» «E va bene», disse, «scusami. Lo sai che non sono cattivo, Helen». «So che non lo sei, ma per favore non fare quello che non mi va. Un tempo mi trattavi molto meglio. Quello è il passato. Eravamo ragazzi». «Strano», Helen rammentò, «i sogni di gloria che facevamo pomiciando». «E allora che c'è che non va in me?» «Nulla. Siamo amici. Amici ne ho quanti me ne occorrono». «Che cosa ti occorre allora, Lewis?» «Piantala di fare la saccente, Helen. Ti interesserebbe sapere che vorrei davvero sposarti?» Impallidì del proprio ardire. Lei ne fu sorpresa e commossa. «Grazie», sussurrò. «Grazie non mi basta. Dimmi sì o no». «No, Lewis. È come pensavo». Fissò l'oceano con lo sguardo vacuo. «Non avevo mai immaginato neanche lontanamente che ti interessasse a me. Esci con ragazze così diverse da me. Ti prego, quando esco con loro non puoi vedere quello che penso». «No», ammise lei. «Posso darti molto di più di quello che hai. Lo so, ma voglio una vita diversa da quella che ho ora, o dalla tua. Non voglio un negoziante per marito. Vuoi mettere vini e liquori con quegli alimentari da 4 soldi? Lo so. Non è mica perché al tuo vecchio non piace il mio. No». Ascoltò il lamento della risacca mossa dal vento. Lewis disse: «Andiamo a prendere un hamburger». «Volentieri». Lo prese sotto braccio, ma dalla rigidità con cui si muoveva capiva che l'aveva ferito. Mentre rincasavano in macchina sulla Parkway, Lewis disse: «Se non puoi avere tutto quello che desideri, prendi almeno qualcosa. Non essere così maledettamente orgogliosa, toccata». «Che cosa devo prendere, Lewis?» Esitò. «Accontentati di meno». «Meno non l'accetterò mai. Bisogna fare dei compromessi. Non ne farò coi miei ideali». «E che cosa diventerai allora? Una vecchia zitella rinsecchita come una prugna? Cosa te ne viene in tasca?» «Niente». «E allora cosa pensi di fare?» «Aspetterò. Sognerò. qualcosa succederà. Balle, disse. La lasciò davanti al negozio. Grazie di tutto, non farmi ridere. Lui se ne andò. Il negozio era chiuso, di sopra tutto spento. Immaginò suo padre addormentato dopo la lunga giornata che sognava di Efraim. Per che cosa mi tengo in serbo? Si chiese. Per quale infelice destino degno di un bober? Il giorno dopo nevicò leggermente. Troppo presto, si lamentò Ida, e quando la neve si sciolse, nevicò di nuovo. Vestendosi al buio, Morris disse che, aperto il negozio, avrebbe spalato la neve. Gli piaceva spalare la neve. Gli ricordava che nell'infanzia praticamente c'era sempre vissuto in mezzo. Ma Ida glielo proibì perché Morris si lamentava ancora dei capogiri. Più tardi, quando sotto la neve cercò di portar dentro le cassette del latte, non ce la fece proprio. E non c'era a dargli una mano Frank Alpine, che dopo il lavaggio della vetrina era scomparso. Poco dopo il marito scese Ida, con un cappotto pesante, una sciarpa di lana avvolta attorno al collo e le galosce. Spalò un sentiero nella neve e insieme portarono dentro il latte. Solo allora Morris si accorse che una bottiglia di un quarto mancava da una delle cassette. «Chi l'ha preso?» gridò Ida. «Come posso saperlo?» «Hai già contato i panini?» «No. Ti ho detto di contarli sempre, subito. Vuoi che il panettiere mi derubi? Sono 20 anni che lo conosco. Conta tutto quello che ti consegnano, chiunque sia il fornitore. Te l'ho detto 1000 volte!» Rovesciò dalla cesta i panini e li contò. Ne mancavano 3. E ne aveva venduto uno solo alla polacca. Per tranquillizzare Ida, le disse che c'erano tutti. Il mattino seguente, un altro quarto di latte e 2 pagnotte erano scomparse. Era preoccupato, ma quando Ida gli domandò se mancava ancora qualcosa, non le disse la verità. Il terzo giorno, scomparsi di nuovo 1/4 di latte e 2 pagnotte, il negoziante, molto inquieto, meditò di chiamare la polizia. Poco prima delle 6, Morris si vestì in fretta e scese. Mancavano 1 bottiglia di latte e, quando le contò, 2 pagnotte. Continuò a tenere nascosta la verità a Ida. La notte seguente, svegliandosi, lei lo vide accanto alla finestra al buio. «Che c'è?» chiese alzandosi a sedere sul letto. «Non posso dormire. Non stare seduto al freddo in mutande. Torna a letto!» Obbedì. Più tardi, latte e pagnotte mancavano di nuovo. Morris era convinto che il ladro abitasse in quell'isolato. Nick Fuso non avrebbe fatto una cosa simile e se lo avesse fatto, Morris lo avrebbe sentito scendere le scale e poi tornare di sopra. Il ladro era qualcuno di fuori. Strisciava lungo le case dove Morris non poteva vederlo per via del cornicione che sporgeva sopra il negozio. Apriva cautamente la porta dell'atrio, prendeva il latte, 2 pagnotte dal sacco e sgattaiolava via rasentando i fabbricati. Sospettava Mike Papadopoulos, il ragazzo greco che abitava al primo piano sopra il negozio di Carp. A 18 anni Mike aveva scontato una condanna in riformatorio. Poco dopo le 8 del mattino, Morris salì le scale per bussare con riluttanza alla porta della signora Papadopoulos. «Scusi il disturbo», disse, e le narrò quel che accadeva col latte e le pagnotte. «Mike lavora tutta la notte in un ristorante», disse lei con uno sguardo risentito. «Torna a casa solo alle 9 del mattino. Dorme tutto il giorno». Morris se ne andò. ora era molto preoccupato. Doveva dirlo a Ida e lasciarle chiamare la polizia. Provò ad attendere ancora. Quella sera, uscendo dal negozio per la porta laterale, che chiudeva sempre col lucchetto dopo aver sprangato dall'interno l'uscio che dava in strada, accese la luce della cantina dando un'occhiata giù per le scale, come era sua abitudine fare ogni sera. Il cuore gli si strinse al timore che ci fosse qualcuno laggiù. Riaprì la porta e tornò in negozio a prendere un'accetta. Facendosi coraggio, scese adagio la scala di legno. La cantina era vuota. Guardò nei recipienti polverosi, rovistò dappertutto, ma non c'era nessuno. Al mattino raccontò quel che succedeva a Ida, che, dandogli dello sciocco, chiamò la polizia. Dal vicino commissariato arrivò un agente tarchiato col viso rosso di nome Minogue, che aveva già l'incarico di investigare sulla rapina da Morris. Era serio, affabile, calvo, un vedovo che un tempo abitava nel quartiere. Minogue si sedette al tavolo nel retrobottega e ascoltò le lagnanze di Ida, inforcò gli occhiali e prese degli appunti su un taccuino nero. Disse che avrebbe mandato un agente a sorvegliare il negozio al mattino all'ora della consegna del latte e di tenerlo informato se succedeva ancora qualcosa. Quella sera, seguendo un impulso, Morris chiuse il negozio un'ora più tardi del solito, accese la luce della cantina e scese cautamente le scale stringendo l'accetta. Arrivato quasi in fondo, emise un grido e l'accetta gli cadde di mano. Un viso d'uomo tirato e sparuto lo fissava con terrore. Era Frank Alpine, pallido e con la barba lunga. Stava dormendo con addosso cappotto e cappello, seduto su una cassa appoggiata al muro. La luce lo aveva svegliato. «Cosa fa qui?» gridò Morris. «Nulla», disse Frank tristemente. «Dormivo in cantina. Non ho fatto nessun danno». «È lei che mi ha rubato il latte e le pagnotte?» «Sì», confessò. «Perché avevo fame». «Perché non me lo ha chiesto?» Frank si alzò. «Nessuno ha il dovere di pensare al mio sostentamento, tranne me. Non riuscivo a trovare lavoro. Ho speso fino all'ultimo centesimo che avevo. Il mio cappotto è troppo leggero per questo clima freddo e schifoso. La neve e la pioggia mi penetrano nelle scarpe e così ho sempre i brividi. Poi non avevo un posto per dormire. È per questo che sono sceso qua giù». «Non abita più con sua sorella?» «Non ho sorelle. È una bugia che le ho raccontato. Sono solo». «Perché mi ha detto che avevo una sorella? Non volevo che pensasse che ero un vagabondo». Morris guardò l'uomo in silenzio. «È mai stato in prigione?» «Mai. Lo giuro in nome di Cristo». «Come è capitato nella mia cantina?» «Per caso. Una sera camminavo nella neve, così tentai la porta della cantina e scoprì che lei la lasciava aperta. Allora cominciai a scendere qua giù di sera, circa un'ora dopo la chiusura del negozio. Al mattino, quando consegnavano il latte e il pane, salivo di nascosto passando per l'atrio, aprivo la porta e prendevo quel che mi occorreva per colazione». «Come può dormire in una cantina così fredda e piena di correnti d'aria? Ho dormito in posti peggiori. Ha fame adesso?» «Ho sempre fame. Venga di sopra». Morris raccolse l'accetta e Frank, soffiandosi il naso nel fazzoletto umido, lo seguì per le scale. Morris accese la luce in negozio e preparò due grossi panini di patè di fegato e senape e nel retro riscaldò una lattina di minestra di fagioli. Frank si sedette al tavolo con il cappotto addosso e il cappello per terra accanto ai piedi. Mangiò avidamente e le mani gli tremavano mentre portava il cucchiaio alle labbra. Il negoziante dovette distogliere lo sguardo. Mentre stava terminando la cena, con caffè e paste, scese Ida con le pantofole di feltro e l'accappatoio. Cos'è successo? Chiese allarmata quando vide Frank Alpine. Ha fame, disse Morris. Indovinò subito. L'ha rubato lui il latte. Aveva fame, spiegò Morris. Dormiva in cantina. Stavo praticamente morendo di fame, disse Frank. Perché non si è cercato un lavoro? Chiese Ida. Ho cercato dappertutto. Poi Ida disse a Frank: quando ha finito, se ne vada altrove, per favore. E rivolgendosi al marito: Morris, digli di andare da un'altra parte. Siamo gente povera noi. Questo lo sa. Me ne andrò, disse Frank, come desidera la signora. Stasera è già troppo tardi, disse Morris. Chi se la sentirebbe di lasciarlo camminare tutta la notte in strada? Non lo voglio qui. Dove vuoi che vada? Frank depose la tazza del caffè sul piattino e ascoltò con interesse. Non è affar mio, rispose Ida. Non si dia la pena, disse Frank. Tra 10 minuti me ne vado. Ha una sigaretta, Morris? Il droghiere andò alla scrivania e tirò fuori un pacchetto di sigarette tutto ammaccato. Sono stantie, si scusò. Non fa nulla. Frank ne accese una, aspirando il fumo con soddisfazione. Tra un attimo me ne vado, disse a Ida. Non mi piace avere fastidi, spiegò lei. Non gliene darò. Posso sembrare un vagabondo in questi abiti, ma non lo sono. Tutta la mia vita ho vissuto con gente per bene. Lascialo stare qui stanotte sul divano, disse Morris a Ida. No, dagli piuttosto un dollaro perché vada altrove. La cantina andrebbe benissimo, osservò Frank. È troppo umida, ci sono anche i topi. Se mi ci lasciate stare ancora una notte, prometto che me ne vado appena giorno. Non abbiate paura di fidarvi di me, sono una persona onesta. Può dormire qui, disse Morris. Morris, sei pazzo? Gridò Ida. Vi ripagherò lavorando, disse Frank. Vi restituirò quel che vi costo. Qualsiasi cosa vogliate che faccia, la farò. Vedremo, disse Morris. No, insistette Ida. Ma Morris la spuntò ed essi salirono, lasciando Frank nel retro con la stufa a gas accesa. Farà piazza pulita del negozio, disse Ida con rabbia. Dove ce l'ha il camion? Chiese Morris sorridendo. Poi disse con voce seria: è un povero ragazzo, mi fa pena. Andarono a letto. Ida dormì male. Di tanto in tanto era tormentata da sogni terribili. Poi si svegliava e si metteva a sedere nel letto tendendo l'orecchio per sentire se giungevano rumori dal negozio. Sognò che scendeva al mattino e tutta la merce era scomparsa, gli scaffali nudi come ossa spolpate di uccelli morti. Sognò anche che l'italiano s'era introdotto furtivamente in casa e stava guardando dal buco della serratura di Helen. Solo quando Morris si alzò per aprire il negozio, Ida si addormentò di un sonno agitato. Il negoziante scese le scale con un sordo dolore al capo. Si sentiva le gambe fiacche. Il sonno non l'aveva ristorato. La neve era scomparsa dalle strade e le cassette del latte erano di nuovo sull'orlo del marciapiede. Non mancava nessuna bottiglia. Il negoziante stava per tirarle dentro quando arrivò la polacca. Entrò e depose 3 penny sul banco. Egli la seguì con il sacco di pagnotte, ne affettò una e l'incartò. Lei prese il tutto senza proferir parola e se ne andò. Morris guardò attraverso l'apertura della parete. Frank dormiva sul divano, vestito, con il cappotto addosso. Aveva la barba scura e respirava con la bocca aperta. Il negoziante uscì in strada e afferrò tutte e due le cassette del latte e tirò con energia. Qualcosa di nero, come un oggetto a forma di cappello, gli si dilatò nel cranio. Divenne una luce sibilante che esplose. Credette di alzarsi e s'accorse invece di cadere. Frank lo trascinò dentro e lo adagiò sul divano. Si precipitò di sopra e picchiò alla porta. Helen, con la vestaglia buttata sopra la camicia da notte, gli aprì e trattenne un grido. «Dica a sua madre che suo marito si è sentito male. Ho chiamato l'ambulanza». Helen si mise a gridare. Correndo giù per le scale, Frank udì i lamenti di Ida. Si affrettò nel retrobottega. L'ebreo giaceva bianco e inanimato sul divano. Frank gli tolse il grembiule con precauzione. Se lo infilò e si legò le stringhe intorno alla vita. «Mi ci vuole la pratica», mormorò. È la voce di Paolo Graziosi che ci legge il commesso, Bernard Malamud, nella traduzione di Giancarlo Buzzi. Questa era la quinta puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Luigi Iavarone. Sono riascoltabili le puntate di Ad Alta Voce sul sito raiplayradio.it.